Gli speciali di Radio 24. Scuola, quale scelta per i nostri figli? Io voglio andare all'ITIS perché non voglio andare all'università. E poi sono bravissimo con i motori. Io voglio fare la parrucchiera e scelgo un istituto professionale perché studiare non è che mi piaccia tanto. Io vorrei che mia figlia facesse il liceo classico. Secondo me è l'unica scuola che apre la mente. Eccole qui le voci di ragazzi e genitori che abbiamo usato in questi giorni per lanciare lo speciale di questa sera, voci che rispecchiano solo alcuni dei tanti luoghi comuni che si nascondono dietro la scelta della scuola, in questo caso delle superiori. Eh sì, perché da oggi è tempo di scegliere la scuola per i nostri figli. Da oggi e fino al 28 febbraio infatti è possibile l'iscrizione alle prime classi di ogni ordine di scuola, iscrizione che per il secondo anno consecutivo deve avvenire online. L'anno scorso c'era stato qualche problema, quest'anno pare che invece stia andando tutto liscio. Fra poco chiederemo conferma anche al ministro Carrozza, che sarà qui con noi. Dunque, al via le iscrizioni, ma quanti dubbi, quanta ansia per noi genitori. Ci sono per esempio i più piccolini, mandarli a scuola a 5 anni oppure lasciarli a giocare alla scuola dell'infanzia ancora un anno. Poi ci sono i più grandi, liceo, istituto tecnico o professionale, poi ancora meglio la scuola vicino casa, quella dove va l'amico, la privata. Quanto noi genitori dobbiamo impicciarci in questa decisione e dobbiamo condizionare la scelta dei nostri ragazzi. Insomma, davvero non è facile per niente, lo dimostrano le tante email che sono arrivate in questi giorni a scuola@radio24.it. Potete ancora inviare le vostre domande oppure potete chiamarci questa sera in diretta all'800 24 00 24, numero che ben conoscete. Potete mandare anche i vostri messaggi SMS invece al 349 238 6666. Con l'aiuto dei nostri esperti cercheremo questa sera di darvi una mano. E lo facciamo a cominciare dai nostri amici che abbiamo qui in studio. Francesco Dell'Oro, che fino a pochissimi giorni fa faceva parte del servizio orientamento del Comune di Milano, un amico di Radio 24 che è già stato ospite dei nostri studi, e il suo libro Cercasi scuola disperatamente è diventato davvero, dovrebbe diventare la Bibbia, dovrebbe stare sul comodino di tutti i genitori che in questi giorni sono alle prese con la scelta delle superiori, perché non dà risposte su che scuola devono fare i nostri figli, perché insomma Dell'Oro non è la sfera magica, ma ci fa riflettere e anche un po' sorridere su questo momento che a volte viene un po' troppo drammatizzato. A volte noi genitori entriamo un po' in una specie di incubo e solo una bella risata intelligente ci può ridestare da questo incubo. Soprattutto noi mamme siamo un po' troppo ansiose, Dell'Oro? Sì, bisogna imparare a presidiare le proprie aspettative, le proprie preoccupazioni. Un po' di orgoglio, perché quando siamo troppo presenti nell'esperienza scolastica dei nostri ragazzi, rischiamo di fare disastri. In alcune famiglie studiano tutti, il papà, la mamma, la nonna, la zia, la tata, e ci sono situazioni che sono, per non definirle troppo critiche, anche un po' comiche. Sì. Poi ci torneremo. E poi qui accanto a me Daniele Grassucci di scuola.net. Buonasera Daniele. Buonasera, anche lui Piera. Un amico di Radio 24, lo riconoscerete. Il nostro specchio sul mondo degli studenti con cui lui si confronta tutti i giorni. Allora Daniele, i ragazzi brancolano ancora nel buio? Ci sono dei dati che lo dicono? Uno su tre è ancora indeciso e questa sera noi cercheremo di dare una mano a lui o ai suoi genitori. Benissimo, allora staremo a vedere. Avremo poi, vi anticipo, una carrellata dei nostri ospiti. Lo scrittore Alessandro D'Aveni, autore di Bianca come il latte e Rossa come il sangue, e poi anche di altri libri, anche lui prof di un liceo di Milano, cercherà di darci una mano e gli chiederemo insomma anche quante colpe hanno gli insegnanti, perché il Dell'Oro su questo è molto cattivo. Avremo poi Mario Rusconi, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi, consulente del MIUR e soprattutto un ex preside, quindi ne ha visti di ragazzi in questi anni. Vallo Bello con Findustria Education per sfatare un po' il mito, no? Che gli istituti tecnici siano delle scuole di serie B, un mito che ancora persiste nonostante gli sforzi per far capire che davvero non è per niente così. E poi avremo anche il ministro Carrozza, che peraltro abbiamo già qua in onda qui con noi. Allora è proprio con lei che vogliamo cominciare. Buonasera ministro. Buonasera. Allora, la procedura telematica quest'anno non ha dato problemi, è andato tutto liscio? Per ora sì, sta andando bene, sono registrati 400.000 persone, utenti, e oggi ne abbiamo fatti più di 50.000, quindi stanno andando molto bene. Bene, noi italiani ci stiamo forse abituando, insomma, a questa procedura che in effetti ci toglie anche qualche rottura di scatole di andare e poi si elimina il cartaceo. Allora, quest'anno il MIURSS è anche molto impegnato sul fronte dell'orientamento e ha destinato 6,6 milioni a questo settore, che non è poco in tempi di vacche magre come quelli che stiamo vivendo, una cifra importante. Eppure, Daniele, non tutti i ragazzi hanno seguito questi corsi di orientamento, eccetera. Sì, buonasera Ministro. Per prima cosa complimenti per oggi, perché siete andati molto meglio rispetto allo scorso anno, avete gestito più del doppio delle domande, quindi prima cosa complimenti. E in seconda battuta, ecco, abbiamo rilevato proprio in questi giorni che un ragazzo su tre è ancora indeciso. Ecco, allora volevamo sapere lei che cosa ne pensa di questo dato e se in futuro si riuscirà ad arrivare, ecco, all'apertura delle iscrizioni con i ragazzi che abbiano già le idee chiare. Beh, sicuramente il fatto che uno su tre sia indeciso è un dato sconcertante, nel senso che a quest'ora, in questi giorni, proprio perché ci sono le iscrizioni, i ragazzi dovrebbero avere le idee chiare. Però, visto in un quadro di riferimento, di disorientamento complessivo dei nostri giovani, non mi sorprende, è sicuramente un dato su cui dobbiamo lavorare, proprio sia nel passaggio fra le scuole medie e le superiori, sia nel passaggio fra poi le superiori e il mondo del lavoro o l'università. Ecco Ministro, noi abbiamo molti genitori all'ascolto e anche molti ragazzi, perché insomma so che mi hanno scritto che almeno nella prima ora ci seguiranno, poi li mandiamo tutti a nanna. Insomma, che consiglio vogliamo dare intanto ai ragazzi? Secondo lei è una scelta che devono fare con la testa o con il cuore? Ma io direi che, come sempre nella vita e come dimostrano gli studi di neuroscienze, le scelte le dobbiamo fare con le emozioni e con la razionalità. Non si possono scindere le due cose, quindi in parte dobbiamo seguire le nostre aspirazioni, le nostre motivazioni e in parte anche la testa, perché poi bisogna pensare che le scelte che si fanno, soprattutto quelle che si fanno a 14-15 anni, poi a 18, sono quelle che segneranno poi in che ambiente staremo, che lavoro faremo. Quindi scegliere per esempio un liceo o un istituto tecnico poi nel bene e nel male indirizza in quello che noi faremo più avanti. Si può sempre ripensare, chiaramente io non sono mai per incanalare i ragazzi in un binario fisso e do sempre spazio ai ripensamenti, però bisogna anche capire che ci sono tre parti, scegliere, studiare e lavorare, sono tre conseguenze una dietro l'altra e quindi alla fine bisogna pensare che lavoro voglio fare, cosa mi vedo a fare io da grande. Ecco, uno su quattro in effetti, da un sondaggio che ha fatto proprio scuola.net, tiene ben presente la ricaduta occupazionale della scuola che si sceglie. Ma secondo lei è giusto che i ragazzini in terza media pensino già alla ricaduta occupazionale? Se io penso a quando avevo io 13-14 anni, forse non è che ci pensassi tanto a quale dovesse essere il mio lavoro, pensavo insomma più alla scelta, alla passione che mi guidava. È giusto secondo lei che a 14 anni si pensi già a quale a indirizzare la propria scelta in tal senso? Io penso che sia giusto guardare anche a questo, soprattutto sia giusto da parte delle scuole, degli istituti di istruzione superiore, dire molto chiaramente quali sono gli esiti occupazionali di un corso di studi, perché adesso le percentuali di giovani disoccupati o di giovani che non studiano e non lavorano sono talmente alti che dobbiamo considerare questo un'emergenza nazionale, lavorare anche nella massima chiarezza. Io ho studiato più di 20 anni fa e quando ho studiato io c'erano più opportunità, più possibilità e anche meno legame, però adesso la situazione è talmente grave, è talmente difficile, l'istruzione costa così tanto, teniamo conto che gli statali hanno gli stipendi bloccati da anni, ci sono situazioni di disoccupazione, famiglie con disagio e quindi mandare un figlio a scuola è un grande investimento e questo investimento si deve fare pensando anche alle ricadute occupazionali. Eh sì, forse insomma i ragazzi sentono anche molto parlare di questi temi a casa, forse più di quanto non sentissimo parlare noi un tempo. Tommy ci chiama da Riva Ligure. Tommy, tu hai 13 anni, giusto? Sì, sì. Ciao Tommy, quindi tu stai facendo questa scelta o sei ancora in seconda media? No, io sto già facendo questa scelta e concordo che è una cosa molto difficile. È complicata, certo. Vuoi fare una domanda al ministro? Io volevo fare una domanda su, visto che ognuno ha la sua scuola ideale nella testa, certo, e quella di noi ragazzi spesso non corrisponde a quella degli adulti, quindi io volevo chiedere qual è la scuola ideale e se è quella che ha scelto lei, alla sua età, alla nostra età, e se è lontana da quella di oggi. Ministro, lei se la ricorda come la fece questa scelta del passaggio dalle medie alle superiori? Sì, io la feci pensando alle materie che mi piaceva studiare. Io ho sempre voluto fare la scienziata e quindi scelsi il liceo scientifico pensando che mi piacevano le materie scientifiche, però non volevo neanche abbandonare le materie umanistiche, quindi scelsi la scuola che mi sembrava raccogliere le mie idee. Penso che bisogna ascoltare i genitori, questo sì è importante, per carità, però la scelta è una scelta individuale, è la prima scelta importante dei ragazzi, e quindi i ragazzi devono scegliere anche quello che piace loro studiare e pensarsi da grandi cosa mi piace fare. Io dico anche ai genitori che ascoltano che devono anche essere capaci molto di sviluppare le personalità e le inclinazioni dei ragazzi, quindi la scuola ideale è quella che suscita entusiasmo, che attrae, che sembra essere corrispondere ai propri sogni, però devono anche pensare cosa posso essere io fra 4-5 anni, per cosa studio, non soltanto cosa studio adesso. E noi genitori come siamo, ministro? Ci impicciamo un po' troppo, secondo lei? C'è qualche consiglio che vuole dare ai genitori in ascolto? Sì, i genitori, ma a volte se ne occupano troppo poco, a volte invece se ne occupano troppo, insomma è difficile trovare il giusto equilibrio. Io credo che sia corretto parlarne con i ragazzi, perché i ragazzi vogliono essere ascoltati durante queste scelte, non vogliono che vengano prese sotto gamba, e poi spesso i genitori pensano solo qual è l'esito scolastico, devi avere voti alti e andare bene a scuola, però non è che l'obiettivo di un ragazzo è andare bene a scuola, l'obiettivo di un ragazzo è sviluppare la propria personalità e realizzare i propri talenti, quindi bisogna un pochino astrarre da quello che ci piace a noi, avere il figlio che va bene a scuola e non provoca problemi, e invece pensare a quello che è più giusto per il ragazzo. Questo è un passaggio molto difficile da fare. Assolutamente sì. Insomma, e poi bisogna trovare il modo, ministro, di convincere i genitori che il proprio figlio non è necessariamente da meno degli altri se sceglie un istituto tecnico, perché magari ha già una certa propensione per mestieri tanto richiesti anche dal mondo imprenditoriale che ancora non si trovano. Un problema che non riusciamo ancora a risolvere, questo. Ma insomma in Italia molti ragazzi scelgono l'istruzione tecnica o l'istruzione professionale, e in certe scuole è davvero ottima, io ne ho visitate tante e ho trovato anche tanto impegno. Non è che esiste una scuola ideale, è molto difficile, ma la scuola ideale è quella che qualcuno fa volentieri, cioè la cosa importante è studiare e pensare alla scuola non come un obbligo, non come un luogo che non ti capisce. E poi l'età è molto difficile, quella dei 14-15 anni, è l'età più critica dove abbiamo anche tanta dispersione scolastica, e a volte i ragazzi sembrano svogliati, non hanno voglia di fare. Io so che per gli insegnanti è davvero una sfida affrontare quell'età nel modo giusto, quindi i genitori devono anche un po' lasciare andare i figli, e gli insegnanti devono essere quelle persone che evocano i talenti, e non sempre è facile perché è un'età difficile, e poi i ragazzi adesso sono molto disorientati perché la società che vedono intorno, il senso negativo anche di tutti questi dati, sì, la sì. crisi, non è un periodo molto che difficile, certo, molto difficile. Non è un periodo che mette grande entusiasmo nelle persone, nei ragazzi soprattutto, respirano in casa anche un'area un po' pesante. Un'ultima domanda, ministro, il rapporto Caritas Migrantes di qualche giorno fa davvero mi ha colpito, ragazzi stranieri che ancora vengono indirizzati verso l'istruzione tecnica o professionale come se appunto fosse per gli studenti meno bravi. In Italia si parla spesso di questo ascensore sociale bloccato, non è che si comincia a bloccare proprio in terza media, cioè i figli dei professionisti vanno al liceo pure se a volte non hanno tanta voglia di studiare, bravini ai tecnici, ai somari e gli stranieri professionali? Guardi, questa è una cosa che mi fa molto preoccupare. Noi non dobbiamo ritornare a un'Italia o a un paese classista in cui la divisione avviene a 14 anni. Questa separazione e pensare che esistano scuole di serie A, di serie B o di serie C è veramente un problema, è una piaga per il nostro paese. Noi dobbiamo ritornare a pensare che la scuola è un ascensore sociale e che permette a tutti di realizzare le proprie possibilità. Noi dobbiamo investire tantissimo sull'orientamento, perché dobbiamo evitare di tornare ad essere una scuola e un mondo in cui si fa lo stesso mestiere dei genitori, si rimane fissi nel solco che viene tracciato da piccoli. La società evoluta è quella che lascia sviluppare indipendentemente dalle condizioni di partenza, per cui penso che queste campagne di orientamento e anche l'idea insomma che alla fine l'Italia sarà veramente una società integrata quando tutte, anche le persone immigrate di prima e di seconda generazione, potranno realizzarsi al meglio negli studi, e io confido che questo avverrà, anche perché sta avvenendo mano a mano che e i figli anche di seconda generazione, di immigrati, vanno avanti, si realizzano bene negli studi, così l'integrazione sarà realizzata. Grazie Ministro, buona serata. Grazie anche a voi, buonasera. Una classe di classici, figli di Dio, dubbi amletici, tipici dei 16. Essere o non essere patetici, yes sì. Ho gli occhiali spessi, vedessi. Amici che spesso mi chiamano Nessie. Indefessi, mi pensano come uno stencil. Bud Spencer e Terenzi, repressi. Con grossi limiti, ma imbottiti di bicipiti da divi che invidi. 824 0024 per intervenire in diretta. I vostri sms al 349-238-6666. Salutato il ministro Carrozza, ci colleghiamo invece con Francesca Barbieri, collega del Sole 24 Ore. Buonasera Francesca. Buonasera a tutti. Allora, Francesca ha realizzato un ottimo speciale per il Sole, che davvero contiene tutto quello che bisogna sapere per iscriversi a scuola. Diamo qualche informazione a chi ancora non si fosse avventurato oggi nell'iscrizione. Cos'è che bisogna fare, Francesca, dunque, per iscriversi? Abbiamo detto che anche quest'anno, per il secondo anno consecutivo, si può fare solo online l'iscrizione. Ecco, ma spiegaci meglio come si fa. Sì, bisogna intanto collegarsi al sito del Ministero dell'Istruzione, che è www.iscrizioni.istruzione.it, e l'iscrizione sostanzialmente è articolata in due fasi. La prima fase di registrazione, che era già possibile dalla scorsa settimana, dal 27 gennaio, e poi c'è l'iscrizione vera e propria. Allora, con la registrazione è il genitore che deve inserire i propri dati, a partire dal codice fiscale, nome e cognome, data e luogo di nascita, la residenza, gli estremi di un documento di identità valido e poi soprattutto un indirizzo di posta elettronica, che però non deve essere un'email di posta certificata, perché non viene riconosciuto dal sistema. A questo punto, dopo aver inserito questi dati, averli salvati e confermati, verrà spedito all'indirizzo di posta elettronica comunicato un'email di conferma della registrazione. In questa email c'è un link al quale bisogna collegarsi entro 24 ore, altrimenti la registrazione decade e bisogna ricominciare da capo, e a questo link i genitori possono creare una password che deve avere determinate caratteristiche che sono descritte. La password non viene inviata per ragioni di sicurezza, quindi i genitori la devono, diciamo, salvare e se la devono ricordare, trascrivere. Invece all'indirizzo email dei genitori viene inviato il nome utente. Quindi a questo punto si passa dalla prima alla seconda fase, cioè l'iscrizione vera e propria. L'iscrizione che, ricordo, può essere fatta fino al 28 di febbraio. Il 28 di febbraio, quindi non ci occorre, certo, insomma, precipitarsi, anche perché non dà nessun diritto di precedenza, arrivare primi, come dire. Francesca, si può cambiare idea? Come si fa a cambiare idea una volta che si è fatta già l'iscrizione? Allora, una volta che la domanda di iscrizione è inviata non si può modificare. Se si cambia idea bisogna contattare la scuola prescelta e chiedere che la domanda venga sbloccata. Questa operazione può essere fatta entro il 28 di febbraio. Quindi la scuola sblocca la domanda e la domanda rientra nel sistema. Per cui la famiglia può riprendere la domanda, può cancellarla, può farne... Certo, e se invece ci iscriviamo ad una scuola che ha raggiunto già il limite massimo, perché insomma anche le scuole hanno un numero massimo evidentemente, che cosa succede alla nostra domanda? Allora, posto che le scuole cercano in tutti i modi di accogliere tutte le domande, quindi di venire incontro alle richieste delle famiglie, può capitare ovviamente che arrivano tantissime domande che quindi non si riescano ad accogliere tutte. Allora, in questo caso la famiglia viene subito contattata via email, sempre al solito indirizzo indicato all'inizio, e praticamente la domanda viene smistata alla seconda scuola indicata, perché è possibile, oltre alla prima scelta, indicare altre due scuole. Antonio ci scrive, abbiamo un figlio che quest'anno si deve iscrivere al superiore, vorremmo sapere questa cosa, dato che bisogna fare due iscrizioni, è possibile scegliere due indirizzi all'interno del medesimo istituto? Allora, intanto l'iscrizione è una sola. E l'iscrizione allora viene fatta a una scuola e all'interno della stessa scuola si possono indicare fino a 3 indirizzi di studio, quindi se la scuola lo prevede. Poi oltre alla prima scuola scelta se ne possono indicare altre 2, quindi è possibile fare come chiede il lettore, però la domanda di iscrizione è una sola. Certo, un'altra domanda che è arrivata a scuola@radio24.it di Riccardo: mi sono registrato e dal 3 febbraio oggi quindi tenterò di iscrivere mio figlio, è probabile tuttavia che prima dell'inizio del prossimo anno scolastico ci trasferiremo altrove, come si deve procedere in casi come questi? Forse bisogna ritirare la domanda come avevi anticipato prima? In questo caso sì, perché appunto il termine è il 28 febbraio, per cui può presentare una domanda di iscrizione, eventualmente poi dopo se si trasferisce davvero dovrà contattare diciamo la prima scuola a cui aveva presentato la domanda, la nuova scuola, per cancellare la prima iscrizione e farne una nuova. Grazie. In questo caso ovviamente su moduli cartacei. Assolutamente. Francesca, per tutti gli altri dubbi rimandiamo al sito del Sole 24 e di Radio 24, perché c'è ancora il tuo speciale con davvero tutte le risposte a qualsiasi domanda ci possa venire in mente sulle iscrizioni. Grazie intanto, grazie alla collega del Sole 24 Ore Francesca Barbieri. Grazie Francesca, grazie a voi, buona serata. Buonasera. E noi approfittiamo dell'orario prima di mandarli a letto, abbiamo altri ragazzi che vorremmo sentire e ci colleghiamo ora con Napoli e con Laura. Ecco, io prima non l'ho detto, ma Tommy e adesso anche Laura fanno parte di Radio Immaginaria, che è una radio molto particolare, è una radio di adolescenti, l'unica in Italia dicono loro, io penso che sia vero, insomma, gestita e condotta da ragazzini dagli 11 ai 17 anni. Laura, buona serata. Ciao a tutti. Tra un po' ti mandiamo a nanna, Allora, Laura, dici la tua domanda e poi vediamo chi sarà in grado di risponderti. Allora, vorrei fare una domanda sugli Open Day. Sì, vai. Tu li hai seguiti? Hai seguito qualche Open Day? Diciamo no, visto che sto ancora in seconda media, quindi... Ma prima o poi ti toccherà. Allora, qual era la tua domanda sugli Open Day, Laura? Allora, in un Open Day, no, si mostra il lato migliore della scuola, no? Sì. Ma per sapere come se ci piace davvero questa scuola e come dobbiamo fare a... Come facciamo a capirlo se quella è proprio la scuola che ci piace, insomma? Dell'oro, che cosa rispondiamo a Laura? Come capiamo se quella scuola... Laura ha fatto una domanda interessante. Beh, intanto diciamo a Laura di stare tranquilla perché è ancora in seconda media. Se ne dovrà occupare e pensare a queste iniziative quando sarà in terza media, sarà più grandicella, avrà sicuramente più informazioni. Beh, gli Open Day rappresentano un'occasione importante perché è l'incontro con i testimoni privilegiati, con i dirigenti scolastici, con i docenti, e da loro possiamo sapere tante cose. In genere agli Open Day vanno i genitori, ma devono andare i genitori con i ragazzi, perché i ragazzi hanno delle antenne che noi adulti non abbiamo e sanno cogliere alcuni codici, i livelli di accoglienza, la sensibilità e il respiro pedagogico di quella scuola. Riportano una loro impressione, a volte molto diversa da noi adulti, da quella che abbiamo noi adulti, ma non va mai sottovalutata. È vero, lo diceva Laura, no? C'è un po' di operazione di marketing, ognuno cerca di far vedere che la sua scuola è bellissima, ma questo ci sta un po', la mettiamo un po' in conto. Ma detto questo, pur depurando da questa iniziativa, beh, insomma, gli open day sono un'occasione importante per verificare le caratteristiche della scuola, che tipo di materie ci sono, che impegno. Quindi andare magari anche senza esagerare, perché se no ci sono alcuni genitori che stanno facendo veramente una cosa pazzesca. Una mia amica ha realizzato un file Excel per, per inserire tutti i dati. È una persona molto rigorosa. No, si sta esagerando. Si sta esagerando. 349-238-6666 per i vostri messaggi SMS, poi ne leggiamo qualcuno, ne stanno arrivando già tantissimi. L'800-24-0024 per intervenire in diretta. Scuola, quale scelta per i nostri figli? Sabato sera da me non ci sono i miei. Oh, ma com'è che quest'ora non passa mai? La campanella è la cosa più bella che fuori ci porterà. L'autogestione tranquilli che si farà. Certi argomenti richiedono serietà. Giovani attivi nei collettivi per non lasciarsi mai. Dimmi cosa c'è da fare per domani. 349-238-6666 per i vostri messaggi SMS, 800-24-0024 per le vostre domande in diretta. Invece adesso salutiamo Alessandro Davenia. Buonasera Davenia. Buonasera, bentrovati. Allora, autore di bellissimi libri, piacciono molto anche ai ragazzini proprio di questa età, per la Mondadori, Bianca come il latte, Rossa come il sangue, Cose che nessuno sa, due libri che non a caso parlano di adolescenti, perché tu Davenia gli adolescenti li conosci molto bene, perché sei uno scrittore privilegiato, possiamo dire, no? Li puoi guardare negli occhi tutti i giorni, perché sei un prof, oltre sì, che uno scrittore. Dal 2000 ho cominciato in quell'arena terribile, difficilissima delle scuole medie, adesso sono invece al liceo. Quindi al liceo vedi quelli che sono già arrivati, che questa scelta l'hanno già fatta. Secondo te, insomma, si riconoscono i ragazzi che hanno sbagliato? Insomma, cosa vedi negli occhi di questi ragazzi una volta fatta questa scelta così complicata? Sì, ma guarda, io ho ascoltato le cose che dicevate prima. E intanto proverei ad abbassare un po' i sensi di colpa, perché viviamo veramente in un'epoca in cui ci manca solo questo. E pensare che anche se si fanno degli errori c'è la possibilità di tornare indietro e non siamo tutti ciechi. Quindi effettivamente quando accogli i ragazzi al primo anno, nel giro di poco tempo è piuttosto evidente se il ragazzo è adeguato alla scelta che ha fatto oppure non lo è. E in quel caso ci sono percorsi di riorientamento che, d'accordo con i genitori, insomma, si possono intraprendere. Il problema è se questa scelta fatta dai ragazzi non è una scelta maturata insieme ai genitori. Noi scuole abbiamo esautorato quasi del tutto la famiglia, che è l'unica detentrice della storia del ragazzo. Il problema è che i colloqui dei genitori con gli insegnanti sono colloqui che arrivano a fine quadrimestre, quando c'è da dire i voti. Io vorrei vedere dei colloqui preventivi, vorrei che i genitori mi venissero a raccontare su cosa stanno puntando con quel figlio, che cosa guarda, quali sono i punti di forza, i punti deboli. Noi facciamo un lavoro educativo che è partecipazione di quello che fanno i genitori, non abbiamo la sfera, certo, di pensarlo. Senti, Alessandro, molti genitori che in questi giorni mi hanno scritto lamentano, e lo devo dire perché insomma non mi aspettavo neanche fossero così tante, un brutto atteggiamento da parte proprio degli insegnanti, che molti dicono tendono a scoraggiare i nostri figli, ne minano l'autostima, li bollano perché magari vanno male un po' in matematica o non hanno, e allora assolutamente no al liceo scientifico, insomma lamentano una scarsa, come dire, no, attenzione anche a quali sono i desideri di quel ragazzo al di là del 6.5 o 6 meno. Tu sicuramente non sarai fra questi insegnanti, perché insomma ci siamo sentiti altre volte e mi sembra che davvero c'è un'empatia particolare fra te e i ragazzi, anche se dovremmo sentire i tuoi di ragazzi per sapere se poi è così. Ma insomma, quando un prof non riesce a intravedere la luce negli occhi dei propri studenti, non dovrebbe fare un altro lavoro, diciamocelo? Ma guarda, io cioè, sembra che i professori che hanno empatia verso i propri studenti siano una specie di eccezione o di missionari, quando invece si tratta di caratteristiche base di questo mestiere. Cioè, come a un pizzaiolo si richiede di fare una pizza buona con tutti gli ingredienti, a un insegnante si chiede di avere empatia. Poi che questo mestiere, per come è fatto, per tutto quello che c'è intorno, per come è organizzata la scuola, tenda ad esaurire tutte le risorse che servono ad avere quell'empatia, è un altro discorso lunghissimo che qui non possiamo affrontare. Quindi, ma insomma, è colpa un po' del sistema, come si sarebbe detto una volta. È un colpa, dare la colpa al sistema è troppo semplice. Troppe carte, troppo... Ci dobbiamo mettere a un tavolo e guardare negli occhi i genitori di quel ragazzo, il ragazzo ed io all'inizio dell'anno scolastico e dire: signori, stiamo facendo una cosa insieme, che è riuscire a capire qual è la vocazione di quel figlio, quali sono i suoi talenti e quali sono i suoi limiti, facciamolo insieme. Invece è una specie di lotta dei genitori contro gli insegnanti, perché i genitori pensano che l'insegnante non capisca i figli, dà troppi compiti e non può fallire. Il ragazzo che è preso fra questi due fuochi non sa bene che cosa fare, l'insegnante che si sente in colpa perché si sente giudicato dai genitori e quindi poi si rivale sul figlio. È un meccanismo perverso. La scuola è l'unico triangolo amoroso in cui, se tutti si amano, sono tutti contenti. È l'unico che funziona se ognuno dà all'altro quello che può dare nella relazione. Un triangolo amoroso però che non sempre funziona. Nei tuoi romanzi, Alessandro, ci sono ragazzini tormentati, poco capiti dai grandi, sia in famiglia che a scuola, proprio come stavamo dicendo. Fanno anche qualche stupidaggine, ma quello è giusto che lo facciano alla loro età, ci mancherebbe. Però sono anche dei ragazzi molto carichi di energia, insomma, molto positivi, un'energia che noi insomma ormai ce la sogniamo. Secondo te c'è un clima quasi generale di sfiducia nei confronti di questi ragazzi? Non li crediamo capaci? Non li crediamo capaci anche di scegliere? Ma guarda, a scuola questo è un argomento studiatissimo, si chiama effetto Pigmalione, che era quello scultore del mito che era talmente innamorato della statua che aveva scolpito che gli dei gli concessero di darle vita. E si dice che da come guardi i tuoi studenti sarai capace di determinare i loro risultati. Cioè, nel 90% dei casi è da come tu guardi quello studente che questo determinerà in qualche maniera il modo in cui va in quella materia. Basta uno sguardo, la nostra comunicazione è al 90% non verbale, noi ci illudiamo che invece la scuola sia solo verbalizzare, è da come io gesticolo, da come guardo uno studente, da come mi atteggio nei suoi confronti. I ragazzi sono dei mondi straordinari che vanno scoperti. Io ricevo centinaia e centinaia di lettere che mi fanno sperare su un'Italia che sta crescendo, che è diversa da quella che raccontiamo loro tutti i giorni, un po' perché anche noi abbiamo perso smalto e ci riempiamo di questa disperazione che è nei nostri telegiornali. Io posso sperare, riesco a sperare proprio perché entro ogni giorno in classe, dico: almeno con voi la battaglia non è ancora persa, e mi rendo conto che è un campo da dissodare, che vale la pena dissodare. Alessandro, un consiglio che vuoi dare ai ragazzi invece più piccolini, quelli di 14 anni che adesso devono scegliere superiori? Guarda, il consiglio che io darei, solo che è una cosa un po' difficile da fare, sentivo la ragazza prima che parlava degli open day, è passare un giorno nella scuola. Gli open day sono finti, perché appunto si vende un prodotto, si diceva prima. Se fosse possibile avere delle scuole con le porte aperte, questo il ministro forse potrebbe consentire qualcosa, far passare una giornata, due giorni in quella scuola per rendersi conto di che cosa si tratta, e poi farsi una bella chiacchierata con un insegnante della scuola a venire, che magari sarà il tuo insegnante, e soprattutto con i genitori, mettersi a tavola e dire: ma voi come mi vedete? È una cosa terribile per un ragazzo, forse. Allora forse i genitori possono fare un passo avanti. E devono essere scelte condivise e, ripeto, se noi non consideriamo la storia che ogni ragazzo è, punteremo tutto su aspettative che sono o dei genitori o false aspettative dei ragazzi, che non hanno idea di che cosa significhi fare una certa cosa piuttosto che un'altra. Né i genitori possono basare la scelta sulla scuola che hanno fatto loro, che li porta a fare degli errori clamorosi. Sì, è proprio così. La propria scuola è quasi sempre la migliore, no? Quella che ha fatto il genitore. Allora, Alessandro, bisogna sedersi e parlare. Provarci, non è facile a quell'età, ma insomma bisogna provarci. Grazie ad Alessandro D'Avenia. Grazie a voi. E nonostante i falsi amici, quelli che forse sono peggio dei nemici, quelli con cui per anni hai diviso tutta la vita che l'inferno è paradiso, ma che un bel giorno, quando hai bisogno, ti chiudono la porta e te la sbattono sul grugno, e tu che incassi colpo su colpo, ed ogni volta tu sei morto e poi risorto. Anche se certe sere, quando sei solo in camera tua, non ce la fai a dormire, poi te ne freghi sia quel che sia, non ci spezziamo. Allora, vi ricordo 349-238-6666 per i vostri messaggi SMS, 824-0024 invece per intervenire in diretta, e noi ci colleghiamo con Vicenza e con Adriano. Buonasera Adriano. Sì, buonasera. Beh, innanzitutto complimenti per la trasmissione, utilissima. Grazie Adriano, dici qual è il tuo dubbio. Io volevo un'informazione tecnica. Siccome ho due gemelli da iscrivere, e devo fare due registrazioni. Daniele Grassucci, scuola.net, pronto a risponderti. Ci avventuriamo. In realtà sicuramente deve fare la registrazione come genitore, e poi due distinte procedure di iscrizione, perché trattasi di due distinti soggetti. Assolutamente, quindi non è detto neanche che vogliano fare la stessa. Sì, una registrazione e poi due iscrizioni. Una registrazione come accesso, diciamo, certo, e poi il dato dell'utente, il codice utente, dopodiché fai le iscrizioni. Ok. Va bene Adriano, tutto chiaro? Perfetto. Grazie. E invece Carola Rose Gemellaro, se ho capito bene. Pronto Carola? Pronto. Ciao Carola, quanti anni hai? 13. Ecco, dici un po' qual è il tuo dubbio. Tu devi scegliere le superiori, anche tu 13 anni, forse sei ancora in seconda? No, io sono in terza e sto affrontando appunto questa scelta che è difficile. È difficile, sì. Su che cosa ti stai orientando, sì, Carola? Sul linguistico, perché già sono abbastanza avanti con l'inglese, lo faccio anche un corso privato, e quindi anche perché comunque mi affascinano molto, e quindi credo che sia la scelta migliore. Hai qualche dubbio, Carola? No, non ho nessun dubbio in particolare, ma per fortuna ho la mente chiara appunto su questa scelta. Grazie, abbiamo trovato una ragazza, per fortuna, che si chiama da Catania, tra l'altro, non l'abbiamo detto, Carola si chiama da Catania, che non ha dubbi, meno male, l'abbiamo trovata, dell'oro, c'è anche una ragazza. Ma anche perché sta facendo una scelta molto importante, il liceo linguistico la mette nella condizione di studiare tre lingue straniere già dal primo anno fino al quinto, dal terzo anno poi dovrà studiare una disciplina non linguistica in lingua straniera, e dal quarto anno un'altra disciplina non linguistica in una diversa lingua straniera. Faccio un esempio: dal terzo anno ad esempio potrebbe studiare scienze in inglese, storia in inglese terzo, quarto e quinto anno, e così via. Non e solo, poi magari, farsi un'esperienza anche all'estero, quello sicuramente, che è sempre importante per i ragazzi che fanno questa scelta. E sicuramente, fra l'altro, i dati che abbiamo ci permettono di verificare che i ragazzi che escono da un liceo linguistico hanno ottime possibilità sia a livello universitario, ma anche immediatamente dopo il diploma. Il famoso lavoro che anche sì, i ragazzini, perché, insomma, fermo adesso restando una situazione difficile, però le competenze linguistiche certamente vengono molto considerate. Scuola, quale scelta per i nostri figli? 349-238-6666 per le vostre domande, i vostri sms, 824-0024 invece per intervenire in diretta. Allora, leggiamo qualche messaggio. Buonasera, desidero chiedere se la scuola per i tredicenni adolescenti sono aperti anche a maggiorenni, se no qual è il punto di riferimento per le scuole per gli adulti? Dell'oro. Ci sono i centri, le scuole per adulti, i centri di educazione per adulti, sono centri in genere provinciali, e ovviamente non è possibile che un maggiorenne si iscriva ad una scuola superiore al primo anno, sicuramente. Questo è il momento delle iscrizioni per i tredicenni, via. E invece adesso ci colleghiamo con, non ho capito se Sofia o la mamma di Sofia o Sofia e la sua mamma, sono tutte e due insieme. Pronto, buonasera. Buonasera, io sono la mamma di Sofia. Lei, la mamma, che dubbi abbiamo? Da dove chiama? da Catania. Da Catania, ecco, allora, a Catania prima ha chiamato Carola che insomma aveva le idee chiare, invece a casa vostra ci sono le idee chiare? Guardi, le idee chiare fino a un certo punto, perché io appartengo a una generazione che è stata un po' costretta a fare delle scelte dai genitori. La mia generazione da genitori, invece al contrario, ascolta moltissimo i figli, per cui un po' noi abbiamo subito i genitori, adesso subiamo i figli. Quindi, insomma, qualche dubbio ce l'ho, anche perché lei vorrebbe fare linguistico, io avrei preferito il liceo classico. E Dell'Oro, è un classico anche questo. Sì, sì. Intanto il liceo linguistico è un ottimo corso di studi. Devo dire che nell'esperienza che ho qui a Milano, nell'attività di formazione e di consulenza, molti genitori fanno fatica a immaginare un corso di studi che non sia il classico, lo scientifico. Allora io credo che dobbiamo dare un messaggio ai genitori. Per questa scelta scolastica serve un gioco di squadra. Gli insegnanti daranno un consiglio orientativo e, come diceva prima, adesso non ricordo chi, insomma, è meglio iniziare prima a chiedere un parere agli insegnanti, a confrontarsi con gli insegnanti già in seconda media, ma poi ovviamente serve un confronto fra insegnanti, genitori e ragazzi. I ragazzi devono imparare a considerare i vari pareri, anche quando sono magari contraddittori. Ci capita spesso di sentire il papà che ha un'idea, la mamma che ne ha un'altra e così via. Ma poi devono diventare loro protagonisti di questa scelta. Allora noi dobbiamo aiutarli con grande attenzione, con grande sensibilità. Io non credo che possiamo caricare di grande significato questa scelta rispetto ad uno sbocco professionale. Un ragazzino di 12-13 anni non può immaginare un percorso professionale. Dobbiamo essere molto chiari su questo punto. Certo, ci sono ragazzi e ragazze che a 12-13 anni ti dicono, che ne so, voglio fare il veterinario, magari faranno il veterinario, ma sono casi isolati. In genere un ragazzo, una ragazza a 12-13 anni non può immaginare, non riesce a immaginare un proprio percorso professionale. Assolutamente. E allora la stella polare per la scelta scolastica deve essere questa. I ragazzi devono valutare certamente, considerare con attenzione i punti di forza, di debolezza, le attitudini, le capacità. Il vero problema qual è? Che a questa età non è facile evidenziare queste capacità e queste attitudini. Ecco l'importanza di un gioco di squadra, ecco la sensibilità e l'esperienza professionale sia degli insegnanti che dei genitori, che devono aiutare i ragazzi a focalizzare meglio le proprie capacità e soprattutto le potenzialità. Ivan Lobello, buonasera. Buonasera. Vicepresidente Confindustria Education. Allora, ne abbiamo parlato anche all'inizio con il ministro Carrozza, insomma l'impegno è davvero di tutti, sia del MIUR sia moltissimo anche di Confindustria, per far conoscere gli istituti tecnici, proporli e far capire quanto sia importante che molti ragazzi si indirizzino in tal senso. Negli ultimissimi giorni proprio una ricerca McKinsey ha detto che 4 ragazzi su 10 non trovano lavoro, non a causa della crisi, che pure c'è evidentemente, ma per lo scarso dialogo fra mondo educativo ed economico. E, insomma, lo bello è un problema che persiste questo. Sì, è un problema che persiste, anche se oggi in questi mesi si è aperto un dibattito finalmente molto ampio e non ideologico su questi temi. Il rapporto McKinsey è un rapporto fatto su un piano internazionale con la sua ovviamente dimensione italiana, e ha rilevato in maniera inoppugnabile che una parte significativa dell'occupazione giovanile oggi non dipende solo dalla crisi economica, dalla dura recessione che viviamo dal 2007 ad oggi, ma anche da un rapporto, diciamo così, molto debole tra il sistema formativo e il mondo del lavoro. Quindi è un tema centrale, molto, molto forte. Noi in Confindustria da tempo sviluppiamo riflessioni su questo tema, qualcosa si sta materializzando. Peraltro recentemente nel decreto di istruzione alcuni emendamenti hanno arricchito questi temi. Oggi è possibile in via sperimentale nelle scuole secondarie superiori, siano liceali che tecnico-professionali, sostanzialmente sperimentare nell'ultimo biennio un'alternanza scuola-lavoro, anche col contratto di apprendistato. Lo stesso avviene nell'università, sia triennale che magistrale, dove anche qui è possibile, sì, anche con alcuni crediti, mettere in campo un meccanismo di alternanza scuola-lavoro sempre col contratto di apprendistato. C'è un'evoluzione che in qualche modo nasce poi da questo problema. Oggi abbiamo troppi ragazzi che fanno percorsi formativi senza avere la piena consapevolezza di questi percorsi formativi. Calcoli che secondo alcuni sondaggi, uno fatto da Alma Laurea, 42 diplomati su 100 oggi si dicono pentiti della scelta scolastica fatta dopo la scuola media. E quindi c'è la necessità di un orientamento già nella scuola media, lo ha previsto anche il decreto istruzione, che ovviamente non può essere rimesso solo ai ragazzi che in quell'età hanno difficoltà a individuare un percorso, ma bisogna mettere in campo il ruolo delle famiglie, il ruolo della scuola media, perché sbagliare il percorso della scuola secondaria superiore può essere esiziale per tanti ragazzi. Ci sono tutta una serie di problemi, dall'orientamento ovviamente al rapporto scuola-lavoro, alle possibilità di placement, cioè di trovare occupazione nel mercato del lavoro. Sono temi che in qualche modo diventano centrali in questo momento. Certo, lo bello, Confindustria Cuneo da 2 anni porta avanti un progetto di orientamento che si chiama Fai la scuola giusta. Domenico Annibale, è così? Sì, buonasera a tutti. Sì, in effetti è da 3 anni per la precisione che portiamo avanti questo progetto, nato appunto 3 anni fa su una semplice domanda, di quello che state parlando in questo momento, cioè come mai tanti giovani sono disoccupati e una buona parte di aziende, nonostante fossero già anni di crisi conclamata, era la disperata ricerca di tecnici. Quindi abbiamo fatto cosa a nostro avviso in Italia, nel nostro paese, si fa veramente poco. Abbiamo cercato di fare un po' di autocritica all'interno della nostra associazione e abbiamo pensato che forse potevamo fare qualcosa in più per comunicare queste cose qui alle famiglie e ai ragazzi, e di lì è nato il progetto appunto Fai la scuola giusta. Le prime 2 edizioni sono state presentate con dei filmati per avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro, ed era stato coniato un po' il termine nelle officine meccaniche non si lavora più in tuta blu ma bensì in camice bianco, perché la tecnologia avanza e avanza anche nelle aziende del nostro settore, e quest'anno abbiamo cambiato format un po' più accattivante con uno spettacolo teatrale che ha coinvolto circa 1500 tra ragazzi, famiglie e insegnanti. Sì. Lo bello, è questa la direzione nella quale si deve andare? Beh, sicuramente sì, è un caso esemplare e importante sotto questo profilo, ma ce ne sono tanti in giro per l'Italia. Le ripeto, da qualche tempo il tema dell'alternanza scuola-lavoro è diventato un tema centrale anche nel dibattito pubblico, nel dibattito politico, nella riflessione tra tanti pezzi del sistema delle imprese e il mondo della scuola. È chiaro che dobbiamo superare alcuni vincoli. Vede, uno dei problemi che emergono è questo. Noi guardiamo con attenzione per esempio al sistema duale tedesco, sia nella formazione professionale sia negli altri livelli scolastici. Una delle obiezioni che vengono spesso nel nostro dibattito, sono obiezioni secondo me errate, dipendono dal fatto che dicono: ma questi sistemi funzionano nelle grandi aziende tedesche. In realtà il sistema duale della formazione professionale, che è un segmento del percorso scolastico, in Germania ha come target preciso le piccole e medie aziende. Le faccio un esempio, il caso di Bolzano. Bolzano, come ben chiaro, sì, è una realtà di confine, però è un pezzo dello Stato italiano. Ebbene, sì, a Bolzano, sia nella formazione professionale sia nell'università, è stato recepito integralmente, sulla base anche di interventi regionali e comunque di interventi della legislazione regionale, è stato introdotto il sistema duale tedesco. Grazie Lo Bello, la salutiamo perché ci dobbiamo fermare un attimo per il giornale radio, poi torniamo insieme. Scuola, quale scelta per i nostri figli? Quel Peter qua non mi ha fatto niente, però deve essere un gran fetente, perché lo dice il mio comandante, mi fa una rabbia il fatto che vola, pur non essendo mai andato a scuola, mentre io ci provo ma poi mi ritrovo la testa in giù. Faccio il pirata ma non mi va, e tengo pure una certa età, son tutti buchi come la spugna. Bevo senza ritegno. 349-238-6666 per i vostri messaggi SMS, 824-0024 per le vostre chiamate, e noi ci colleghiamo con Daniel da Roma. Buonasera. Sì. Buonasera. Buonasera Daniel, che dubbi abbiamo? Beh, diciamo che la cosa più importante per me è che quest'anno è la prima volta che uno dei miei figli va alle medie superiori. Mm. E lui è andato insieme a noi agli Open Day, però una cosa che abbiamo avuto di parlare con lui anche insieme agli altri è stato il fatto che delle 6 ore su 4 che lui dedica alla scuola, la valutazione non deve essere solo esclusivamente all'insegnamento che si riceve a scuola, insomma, diciamo che... Cioè, tu dici, Daniel, che... non ho capito, gli Open Day li avete fatti e sono stati utili? Non mi è chiaro. No, è che l'insegnamento soprattutto è a casa. Poi c'è anche la scuola e i contenuti della scuola sono importantissimi, però l'insegnamento e lo studio e la parte della famiglia, diciamo, gioca un ruolo importante. Vanno valutati in modo più pesante, più importante. Ecco, ma volevi, Daniel, volevi fare una domanda? Era una testimonianza. Grazie Daniel da Roma, e noi invece ci trasferiamo nella provincia di Venezia con Renato. Mi stupisce questa sera che siano più i papà a chiamare, o sono più svegli a quest'ora e le mamme sono troppo stanche per stare ancora sveglie, perché di solito invece negli Open Day, appunto molto citati, Daniele, sono quasi tutte mamme, vero o no? Beh sì, tendenzialmente le mamme seguono di più i figli, lo vediamo anche noi su scuola.net, gli adulti che seguono scuola sono soprattutto le mamme, le donne, perché devono dare una mano ai propri figli per fare i compiti. Certo, ma i papà si stanno riprendendo un pochino. E infatti questa sera chiamano quasi solo uomini. Allora, Renato dalla provincia di Venezia, buonasera. Buonasera a tutti, grazie per avermi dato questa opportunità, mi chiamo Renato Mastroianni, ma non sono parente. Mannaggia quella volta che ho avuto questo cognome. Ho 2 bambini piccoli, bellissimi, hanno 1 anno di differenza, è una venicola, ci sono 2 tesori inestimabili che io ho messo al mondo anche scommettendo contro una società difficile, contro anche un ruolo difficile, in quanto sono l'ultimo fra gli ultimi, perché io sono un ex detenuto, sono un ex di quelli di cui non si parla, perché ovviamente lo spazio serve a chi sta male adesso, a chi soffre adesso. Certo, ecco, ma nulla che pretendere. Le tue bambine che classe fanno? I miei bambini. No, vanno all'asilo e alla scuola materna e niente, la cosa che più mi angoscia è non sapere quello che sarà il loro futuro, e il fatto che debbano stare in questo stato a subire tutti i problemi che sono stati creati da altri. Io tra l'altro non ho neanche... Renato, le manderai a scuola giusti o un anno prima? Guardi, io credo che li manderò a scuola giusti, anche se vorrei mandare un anno prima. Io sono l'autore del Dottore Spaziale, volevo chiedervi questo, che è una storia di un bambino che voleva diventare astronauta ma non sapeva come si diceva, il grande te la canta, e attraverso un percorso di adolescenza e di età adulta, fino ad arrivare vecchio, racconta la sua vita. Il Dottore Spaziale, andatevela a vedere. Va bene, grazie Renato. Renato ci ha introdotto in un tema che in effetti io volevo affrontare questa sera, perché siamo in collegamento con Cristina Petit, che è una maestra elementare innanzitutto, poi anche una scrittrice, un'illustratrice, una fotografa, una mamma di ben 3 bambini e ha un blog che si chiama Maestra Piccola, che è diventato qualche anno fa anche un libro molto carino, e ora è in libreria invece con un altro libro per bambini che si chiama Piccolo Buio. Buonasera Petit. Buonasera a tutti. Cristina, dicevamo maestra elementare innanzitutto, perché fra le decisioni da prendere in questo periodo è anche quello di scrivere i bambini, stiamo parlando ovviamente dei più piccoli, lasciamo da parte per un istante i grandi, da scrivere i più piccoli, e c'è la tendenza ultimamente ad approfittare di una legge che comunque c'è e quindi è tutto assolutamente regolare, ma di mandare i bambini prima possibile alla scuola primaria. Certo. E tu che ne dici, Cristina? Una buona idea o invece no? Allora, io proprio... Dell'oro qui fa segno di no, poi sentiremo perché. Anch'io ho fatto segno di no. Allora, quello che è proprio il mio pensiero e il mio consiglio è quello che io ho potuto notare in questi 15 anni di lavoro a scuola, è proprio che mandare i bambini a scuola prima non sia una buona idea, a parte proprio ci sia un caso eccezionale che proprio par la soluzione migliore, ma parliamo di uno su mille. Se no, proprio il consiglio è di non mandarli, perché intanto li bolliamo, perché li mettiamo in una situazione di affanno e di rincorsa per tutta la vita. Li facciamo sentire i più piccoli, perché sono i più piccoli realmente, nel contesto in cui saranno, in tutte le varie... Quindi un pochino anche inadeguati, no? Inadeguati sempre. Invece potrebbero essere i più grandi, perché comunque sono dei bimbi che sono nati all'inizio dell'anno, quindi una situazione, diciamo, di vantaggio passa in una situazione di svantaggio. E questa è la prima cosa. E poi un anno di gioco, di spensieratezza della scuola dell'infanzia, che è meravigliosa, è un regalo preziosissimo proprio per il loro sviluppo psicofisico in una società che tende proprio a far crescere i bambini troppo in fretta. Quindi proprio togliergli questo anno vuol dire minare alla loro serenità di adulti futuri. Ecco Cristina, tu chissà quanti ne hai visti, no? In classe, no, sui tuoi banchi. Ma infatti io posso, scusa, ti ho interrotto. No, prego. No, infatti quello che volevo dire è che io ho visto gli anticipatari e se da un punto di vista cognitivo non hanno quasi mai comunque problemi, nel senso che riescono a imparare tranquillamente a leggere, a scrivere, a orientarsi con le operazioni senza alcun problema, perché sapete benissimo che ci sono bimbi che anche da soli tra i 4 e 5 anni, tra i 5 e 6 imparano a leggere e a scrivere, quindi non è il cognitivo il punto debole di questi bimbi, ma è invece proprio l'aspetto più emotivo, la maturità emotiva mm-hmm. perché comunque l'apprendimento mette in gioco e le nuove relazioni in una classe con delle maestre che non sono più le maestre della scuola dell'infanzia, con dei tempi che sono completamente diversi, mette in campo delle nuove emozioni, per cui bisogna essere un po' strutturati, un po' più forti sostanzialmente. Certo. E la valutazione, l'apprendimento, le prestazioni è la prima volta in cui loro si misurano con questa cosa. Poi non solo, c'è anche un discorso fisico, proprio se la vogliamo mettere come ultima cosa, perché i tempi di lavoro, le 8 ore a scuola, cioè è stanchezza, quindi anche da un punto è faticoso. E poi proprio l'ultima riflessione che mi viene da fare e da far fare ai genitori che propendono più per questa scelta è questo, che a 5 anni, fra 5-6 anni la differenza... i coetanei non la notano, diciamo, anche a livello non si nota, quando però poi andiamo a pensare al step successivo che sono le medie oppure sono le scuole superiori, se prendiamo per esempio un maschietto che può essere magari ancora non sviluppata, quando fa il salto, quando passa le medie è più piccolo e quando passa alle superiori magari ancora appunto non sviluppato, non... lì dopo sono scarti che si sentono molto con le ragazze, certo. Col coetanei, col più grande, quindi in realtà noi dobbiamo poi pensare anche al futuro, certo. Non solo all'immediato. E grazie poi, Cristina, mi sembra che insomma tu non hai lasciato alcun dubbio, se li possiamo tenere un anno di più alla scuola dell'infanzia forse è meglio tenerli lì. Daniele, abbiamo qualche idea poi del percorso scolastico degli anticipatari e vi siete mai chiesti come sono andati poi gli anticipatari nel corso della loro vita scolastica quando sono più grandi? Ma guarda, sinceramente non ci siamo mai occupati del problema. Hai però visto? ti posso dare una testimonianza personale, nel senso che io sono di gennaio, quindi mia madre mi voleva far anticipare e l'insegnante della materna disse no guarda, lascialo giocare un altro anno perché poi vedrai che andrà spedito, ed effettivamente posso testimoniare che poi il mio percorso scolastico è stato mi sono trovato molto molto bene, senza problemi. Senza problemi. Dell'oro si nota poi nel corso purtroppo del percorso scolastico. Perché quest'anno io ho trovato troppi ragazzi, i cosiddetti primini o le primine, in difficoltà proprio in questa fase del passaggio alla scuola superiore o secondaria di secondo grado, come si dice adesso. Ma soprattutto trovo molti genitori che si pentono di aver fatto questa scelta. Alcuni poi ti dicono, vabbè, ma sono stati gli insegnanti, eccetera, c'è poi lo scaricabarile. Ma tutti sono consapevoli del fatto che in genere questa è stata una scelta affrettata e sbagliata. Quindi meglio rinunciare, meglio lasciarli lì. Assolutamente, lasciamoli crescere con calma. 6 mesi in più non cambiano poi. C'è uno sviluppo di tipo psicofisico che va rispettato. Ma quando entrava in classe il direttore, tu ci facevi alzare tutti in piedi. E quando entrava in classe il bidello, ci permettevi di restar seduti. Mio buon curato, dicevi che la chiesa è la casa dei poveri. E andiamo nella provincia di Bergamo con Maria Cristina, eccola qua, una mamma, credo. Buonasera. Mamma, buonasera. Allora, che scelta dobbiamo fare a casa tua, Maria Cristina? Ho un figlio di 13 anni, in fase di scelta, indeciso tra liceo classico e liceo linguistico. E la mia domanda è, dobbiamo spingerlo a tenere in conto anche il fatto che al liceo linguistico si troverà in una scuola a netta prevalenza femminile, cioè potrebbe rischiare di essere in una classe con 25 ragazze e 3 ragazzi. Allora, Grassucci Daniele qui in studio dice beato lui, dell'oro, no, dell'oro. Ma, è una ma, componente da tenere presente, Maria Cristina. A Maria Cristina devo dire che ho incontrato un papà che mi dice che non voleva far entrare il figlio all'istituto tecnico nel settore tecnologico perché ci sono troppi maschi. Allora, è ovvio che in alcuni istituti c'è una prevalenza di ragazze o di maschietti. Io non credo che questo debba essere un criterio, anche perché poi le situazioni non sono più proprio così come qualche anno fa. Diciamo che sto vedendo anche nei licei linguistici un inserimento maggiore di maschietti. Sì, è così, mia figlia ne ha 3 in classe, vabbè, vabbè contesissimi. Dipende molto dalle sezioni, è ovvio, tradizionalmente il linguistico è... Sì, è così. Salutiamo il nostro nuovo ospite, Mario Rusconi, buonasera. Mario Rusconi. Buonasera a sì, tutti voi, dell'Associazione Nazionale Presidi. Sì, ciao Mario. Daniele. E poi è stato preside fino all'anno scorso, dico bene? Sì. Del liceo Newton. Allora, la tengo ancora nella categoria dei presidi, che sono un po' messi sotto accusa perché questi open day a volte, insomma, no? Le scuole tendono a fare un po' di marketing, di raccontare non le scuole che hanno davvero fra le mani, ma le scuole che vorrebbero forse, è un po' così? Cercano un po' di accaparrarsi qualche studente in più? Sì, ma guardi, io penso che in effetti gli open day siano una sorta di supermercato con gli scaffali illuminati, insomma, con prendi 3 e paghi 2. Non penso che l'orientamento si possa fare con gli open day. E l'orientamento, che è un problema molto complesso, va fatto, secondo me, anzitutto cominciando fin dalle scuole elementari, dalla scuola primaria, perché la scuola dovrebbe avere questo compito, sia la scuola primaria sia la scuola media, di fare quelle che sono le tendenze, i desideri, le ambizioni, le competenze dello studente, che poi a poco vanno a incanalarsi in una scuola media superiore. Un consiglio che io do soprattutto ai genitori: cercate di non fare i finti democratici, quelli che dicono no, io non entro nella scelta, diciamo, della scuola superiore di mio figlio, deve farlo lui, io sono un genitore amico, così via, che è solamente un modo per deresponsabilizzarsi, anche perché molto spesso, troppo spesso nella mia lunga carriera ho visto studenti che hanno scelto o per un capriccio oppure perché l'amichetto andava in quella scuola e gli ha detto che si poteva stare bene e così via. Cioè la scelta deve essere, diciamo, il rapporto deve essere fatto fra il ragazzo, la ragazza eccetera e il genitore. Ci deve essere un che non può essere affidato né completamente all'uno né completamente ai genitori. Rusconi, sentiamo un papà che ci chiama da Milano questa volta, vediamo se anche lei ci può aiutare a rispondere. Yuri da Milano, buonasera. Buonasera. Senta, buonasera a tutti. Il nostro dubbio in questo momento è che dobbiamo iscrivere una bambina che è brava, diciamo, e che deve andare alla scuola media. La scuola media che abbiamo scelto gli dà 3 opzioni per la seconda lingua: sì, spagnolo, francese e tedesco. In questo momento, diciamo, ascoltando tutti, sembra che uno deve scegliere il tedesco assolutamente perché l'economia detterà le leggi la Germania, la francese non serve più, lo spagnolo ma non si sa. Sì. Qual è la lingua, diciamo, più indicata in questo momento, ci chiede, dell'oro, a volo d'angelo? No, guarda, lo stai chiedendo forse la persona meno adatta. Voglio dire, è difficile fare quelle distinzioni. Voglio dire, se ho a che fare con una mia azienda col Nord Africa, il francese può essere molto utile, ad esempio, no? Certo, poi sì, anche l'arabo, dipende molto poi certo. dalle situazioni, no? territoriali che si aprono rispetto ad un'attività professionale, quindi certe schematizzazioni forse vanno un po' superate. Rusconi, che consiglio possiamo dare a Yuri? Guardi, io diciamo attirerò gli strali dei miei amici della consejeria spagnola qua a Roma. Io ho lavorato molto, anche collaboro con tedeschi, francesi, inglesi, spagnoli. Secondo me le lingue che devono essere scelte, l'inglese che è una specie di esperanto, devono essere, sottolineo il devono, o il francese o il tedesco, per vari motivi che non è il caso di approfondire. Va bene, Rusconi, scusi, faccio una parentesi, perché oggi lei ha detto una cosa che, insomma, Colosseo viene sponsorizzato dai privati, allora adesso che si sponsorizzino anche le scuole. Usciamo un attimo dal seminato, chiedo scusa, ma approfitto che abbiamo Rusconi in linea. Cosa intendeva dire? Ah, intendevo dire che gli enti locali, o per diciamo così inefficienza politica, o molto spesso per i tagli pazzeschi che ci sono stati da 10-15 anni, non solo nell'ultimo anno, per quanto riguarda i bilanci degli enti locali, faccio presente che il comune è proprietario delle scuole dell'infanzia, elementari e medie, e la provincia delle scuole medie superiori, non hanno la forza e la capacità di venire incontro a tutte le richieste che ci sono nelle scuole, in qualche caso anche richieste serie, antincendio, misure antinfortunistiche e così via. Allora io dico, è bellissimo vedere a Roma, io sono un milanese trapiantato a Roma, che il Colosseo venga dalla tozza e venga rimesso in piedi, io sono d'accordissimo, perché però appunto le grandi aziende non cominciano a pensare, magari anche la piccola azienda, la media azienda che sta in un comprensorio, a pensare di adottare una scuola per cercare di metterla a sistema, di metterla in condizione di essere efficiente, perché mi sono abbastanza seccato, mi permetta, come cittadino oltre che come professionista della scuola, sentire gli aziendalisti, gli industriali e così via, che parlano molto del futuro dei nostri giovani, cosa fa il ministero, cosa fa il governo, e poi vedere che non mettono la manina in tasca. Insomma, mettessero la manina in tasca e cominciassero a fare delle opere, di quelle che io ho definito di mecenatismo appunto formativo. Grazie Rusconi. Introduciamo un nuovo ospite graditissimo, Stefano Molina della Fondazione Agnelli. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Allora, lei di recente ha realizzato uno studio piuttosto interessante, perché parla proprio della scuola media. Bisogna ripartire dal setaccio della scuola media. È qua che si interrompe, ne parlavamo all'inizio con il ministro Carrozza, che si interrompe un po' l'ascensore sociale in Italia, perché i ragazzi vengono divisi in tre, brutalmente. È così, Molina? È un po' questa la tesi che sostiene? Ma sì, premetto, è uno studio della Fondazione Agnelli, non è solo mio. Sì, ci siamo resi conto che nel sistema scolastico italiano, così come è configurato, tutta una serie di problemi nascono soprattutto nell'età della preadolescenza, quindi durante la scuola media. Un orientamento molto meccanicistico del tipo che lei descriveva comporta tutta una serie di problemi e di controindicazioni che poi si pagano nel lungo periodo. La cosa peggiore che succede in Italia, dal nostro punto di vista, è questo setaccio, questa selezione, per cui si guarda il profitto dei ragazzi negli anni della media, e quelli che cominciano a zoppicare, invece di essere aiutati, magari anche con una didattica molto mirata, vengono instradati, fatti accomodare verso le scuole che vengono considerate meno impegnative e professionali, condannando quindi la filiera professionale, sia quella statale sia quella regionale, a un insuccesso sostanzialmente, perché è molto difficile fare scuola con ragazzi che sono sistematicamente i 3-4 meno bravi della classe. Questo è proprio un errore strategico che si riflette sia appunto nella difficoltà di far bene una scuola professionalizzante, sia poi nella catastrofe delle immatricolazioni universitarie che continuano a scendere, e come sappiamo in questo momento meno del 45% dei diciannovenni si immatricola all'università. Ecco, quindi come si può ripensare questa scuola media? La scuola media dovrebbe assumersi più responsabilità, cercare di pensare non appunto a fare una selezione anticipata, in fondo siamo un paese che si vuol pensare un paese a sviluppo avanzato, quindi dovremmo cominciare a pensare che a scuola si va comunque fino ai 16 anni, auspicabilmente fino ai 18, la scuola media dovrebbe quindi un po' rimboccarsi le maniche e cercare anche quei ragazzi un po' in difficoltà di cercare di instradarli verso ancora percorsi scolastici e non verso l'espulsione. Devo però dire che quel che diceva il preside prima è verissimo, cioè c'è anche un problema di risorse. Per riuscire a recuperare quel 40%, 30-40% di ragazzi che cominciano a zoppicare a partire dal momento in cui la scuola è selettiva, occorrono risorse, occorre la scuola aperta al pomeriggio, occorre recupero, e tutte queste cose non si fanno solo con la buona volontà. Certo, Rusconi è ancora lì, giusto? Sì, sono ancora qua. Ecco, di contro al liceo, lei ha avuto un'esperienza molto lunga in un liceo, vede arrivare persone che forse sono state un po' spinte, no? Ragazzi un po' spinti dalle famiglie? Sì, molto spesso le scelte vengono fatte dai genitori in maniera un po', come dire, di recupero di se stessi, insomma. Pensi che già Freud nei primi del Novecento parlava del narcisismo dei genitori che volevano vedere il figlio emergere proprio quasi per ricompensare i propri fallimenti, insomma, quindi parliamo di più di 100 anni fa. E il fatto che però mi volevo riallacciarmi a quello che diceva prima la persona che mi ha preceduto, perché è verissimo, l'anello debole della scuola italiana è la scuola media sicuramente. Ed è l'anello debole anche perché non sono previsti corsi di recupero, non è previsto, diciamo così, una scuola aperta tutto il giorno che di pomeriggio permetta agli studenti meno dotati di poter recuperare. E soprattutto, quindi è lì che cominciamo a perdere qualche pezzo, insomma. Esatto, e l'altro problema grossissimo che non viene affrontato, mi dispiace anche di doverlo dire, anche spesso dai politici, è la formazione degli insegnanti. Lei tenga che da circa 20 anni i contratti di lavoro hanno tolto all'insegnante l'obbligo di essere aggiornato, di essere formato, cioè l'insegnante da 20 anni a questa parte potrebbe, non succede naturalmente, non aver letto un libro, ma le tecniche anche per recuperare lo studente in difficoltà si apprendono, lo fanno in Germania, lo fanno in Francia, lo fanno in Lussemburgo. Da noi, insieme alla Grecia, non c'è l'obbligo per gli insegnanti di formarsi, di aggiornarsi, per cui lo Stato non stanzia se non poche cose, almeno negli ultimi tempi. Grazie a Mario Rusconi. Grazie a Stefano Molina della Fondazione Agnelli. Non è vero, leggo da un nostro messaggio SMS, non è vero che il sito funziona meglio dello scorso anno, l'abbiamo detto all'inizio, il sito per effettuare appunto le iscrizioni online. È lentissimo, continua a dare messaggi di errore assurdi, alla fine ti chiede anche il numero di browser e provare a collegarti più tardi. Insomma, un po' un fallimento. Un altro ascoltatore invece scrive: consideriamo che ci si deve iscrivere online e abbiamo solo il 30% del territorio a banda larga, quindi come facciamo? Purtroppo è vero anche questo. Ci fermiamo per qualche istante e poi ancora in diretta con voi all'800 24 00 24. Scuola, quale scelta per i nostri figli? Coi gesti lenti, conosciuti solo in teoria, come nelle favole, fin sopra le nuvole, convinti che quell'istante durerà da lì all'eternità. Lo strano percorso. Daniele, sono stati aggiornati i dati del MIUR sulle domande effettuate? Sì, adesso ci comunicano un po' come se fosse Teleton, che c'è quel totalone che si aggiorna, ecco, che siamo arrivati a 78.000 iscrizioni, quindi direi effettuate. Qualche piccolissimo problema che ci viene segnalato dai nostri ascoltatori, mi sembra che la macchina stia va meglio rispetto allo scorso anno. Ecco, poi sicuramente i singoli utenti potranno avere dei problemi, è normale quando ci sono questi picchi, questi sovraccarichi che i siti, i sistemi siano lenti, però ecco, quello che possiamo dire è che lo scorso anno il primo giorno vennero effettuate 25.000 domande di iscrizione, quindi chiuse, adesso siamo arrivati a 78.000 siamo tre volte tanto, quattro volte tanto, insomma. Quindi, e poi comunque si può ritentare domani o dopodomani, perché dicevamo c'è tempo fino al 28 febbraio. Anche perché io stavo parlando proprio questa mattina con l'ufficio stampa del ministero, e loro mi dicevano proprio che c'è un mese di tempo proprio perché uno possa scegliere bene e non si possano fare errori, perché una volta che la domanda viene inviata alla scuola, quindi si termina la procedura, poi se si vuole cambiare idea bisogna andare diventa nelle segreterie, diventa complicato. Molto complicato. Lorenza da Milano, buonasera. Buonasera. Il mio intervento riguarda mio figlio che ha 13 anni e stiamo per iscriverlo. E stasera, dopo una lunga discussione con il marito, non siamo ancora arrivati a una soluzione, in quanto il ragazzino vorrebbe fare un istituto di informatica, mentre i professori ci consigliano assolutamente di fargli fare un liceo, che sia classico, scientifico, comunque un liceo, perché altrimenti sprecheremo le potenzialità di nostro figlio. E quindi troppo bravo e troppo intelligente per andare in un istituto informatico, questo viene il messaggio che passa, no? Sì, e lui dall'anno scorso che ci dice che comunque vorrebbe fare, potrebbe adattarsi facendo un liceo di scienze applicate. Lorenza, io ti ringrazio perché ci dai l'occasione per parlare del consiglio orientativo che in effetti viene dato a tutte le famiglie, no? A tutti i ragazzini da parte dei loro insegnanti, del loro oro colato. No, il consiglio orientativo. Oppure che uso ne dobbiamo fare di questo consiglio orientativo? Intanto non bisognerebbe mai aspettare il consiglio orientativo, che in genere viene dato nei primi giorni di dicembre, come una specie di sentenza. Andrebbe costruito in un confronto prima, partendo già dalla seconda media, in un confronto fra genitori, studenti e docenti. I dati che abbiamo ci dicono che la maggior parte dei ragazzi che seguono quel consiglio orientativo hanno un esito positivo poi nelle scuole superiori, però quindi non va trascurato, non va banalizzato assolutamente, però è anche vero che a volte abbiamo un dato che è statisticamente migliore, ma che ci dimostra che in qualche caso ci siamo sbagliati a conferma della complessità del problema. Ma nel caso specifico sollevato, io sono convinto che nella scuola, purtroppo, questi ragazzi respirano un passaparola, una cultura che è purtroppo presente nelle aule scolastiche, per cui quelli bravi devono andare al liceo, i meno bravi i tecnici e così via, e non funziona questa cosa. E soprattutto quando i ragazzi sono determinati su una scelta, hanno passione, interesse per quel corso di studi. Fra l'altro credo che ci sia anche una banalizzazione dei tecnici. Noi abbiamo dei grandi professionisti che hanno fatto questo corso studiorum, questo corso di studi. Fra l'altro informatica e telecomunicazione all'interno del settore tecnologico, uno dei nuovi indirizzi, è un corso di studi che richiede competenze e requisiti di ingresso importante, soprattutto sulle materie scientifiche. Matematica, fisica e chimica sono le materie che caratterizzeranno questo corso di studi insieme a informatica. E non è un caso che la maggior parte dei laureati soprattutto hanno un diploma o dello scientifico, ma poi abbiamo quelli dei tecnici e poi quelli ovviamente del classico. Certo, sono dati che poi vanno interpretati in rapporto alla quantità di diplomati che escono dai classici, eccetera. Ma c'è veramente un modo sbagliato di considerare l'importanza degli istituti tecnici. Quindi a Lorenza consiglio di seguire. Se è determinato questo ragazzo, guai a dissuaderlo. Anche perché se poi non gli piacerà la scuola che frequenterà, sarà dura per un genitore. A fine settimana arriva una fattura. Arriva la fattura, Daniele. Sì, io voglio dare proprio un consiglio pratico. Ad esempio nel settore in cui lavoro io, che è quello del web, ci sono tantissimi sviluppatori, programmatori, quindi figure ben pagate, che non hanno la laurea ma magari hanno preso un diploma in un istituto tecnico informatico. Quindi questo per dire che in realtà le capacità del ragazzo, se è portato per quella materia, vengono valorizzate da quel percorso di studi. E poi aggiungiamo che molti ragazzi diplomati dei tecnici sono iscritti all'università. Assolutamente, quasi non è un 90.000. Percorso che necessariamente si deve fermare lì. Alberto Pellai, un amico di Radio 24, buonasera. Buonasera a tutti, ciao Maria Piera. Psicoterapeuta dell'età evolutiva, autore di tantissimi libri per la Erickson, fra cui Lasciateci crescere in pace. Cito questo perché è uno degli ultimi, perché insomma mi sembra che sia perfetto per la serata. Prima però una domanda personale, perché hai quattro figli, quanti ne devi iscrivere quest'anno? Quest'anno facciamo tris, eccolo qua. Sono tre cambi di scuola per tre figli. Fantastico, però puoi fare un solo accesso al sito del MIUR, risparmi tempo. Alberto, e i tuoi figli quindi in che scuola devono andare? Uno andrà alle superiori, una si iscriverà alle secondarie di primo grado e un'altra invece passerà dalle materne alle elementari. Grandi sedute di psicoterapia per scegliere la scuola superiore in casa tua? Ma no, noi abbiamo la fortuna che poi alla fine in casa c'è una squadra, quindi i più piccoli di sicuro hanno un po' imparato la lezione dai più grandi, sanno esattamente un po' cosa si devono aspettare perché hanno avuto una testimonianza viva e concreta in casa. La sfida quest'anno è stata per il maggiorenne che doveva fare il grande salto dalle inferiori alle superiori. E com'è andata? Ma è andata molto bene perché fondamentalmente lui era abbastanza consapevole e tranquillo della sua scelta, era in linea col consiglio orientativo della scuola. Secondo me poi al di là di tutto a lui è veramente piaciuto tanto, da una parte fare una giornata nella scuola dove voleva andare, andarsela a esplorare, a essere accolto, guardare in giro, parlare con gli altri studenti. E la cosa che io ho trovato molto utile è che lui si sia confrontato con amici di famiglia che frequentavano la scuola che lui aveva in mente di fare, dove in queste conversazioni tra pari ha imparato già qualche trucco del mestiere, magari per sapere cosa lo aspetta. Assolutamente. Alberto, però insomma molti genitori che ci hanno chiamato questa sera ci hanno raccontato anche l'ultima, la Lorenza, se ricordo bene, ci diceva: stasera eravamo lì che parlavamo io e mio marito, non ho capito se il figlio fosse presente o no, mi sembra di aver capito di no. Insomma, come diventa anche un momento molto particolare e molto delicato per la famiglia, quello della scelta delle superiori, perché ci sono psicodrammi, perché ci sono litigi, eccetera. Come gestire al meglio questo momento così, così difficile e così delicato? Qualche consiglio? Proprio partendo da quello che diceva questa mamma, la sua incertezza mi sembrava tra un consiglio orientativo che non era, io non trovavo in contrasto poi con la scelta del ragazzo, cioè il fatto che il ragazzo vuole fare un istituto tecnico ad indirizzo informatico non è poi così diverso dal consiglio orientativo della scuola. Nel consiglio orientativo della scuola io trovo un forte pregiudizio, un po' come hanno detto anche i tuoi ospiti, nei confronti dell'istituto tecnico. Mi sento di dire che proprio negli ultimi mesi ho conosciuto studenti del Politecnico che hanno un po' maledetto il fatto di aver frequentato un liceo e che mi raccontavano gli studenti che avevano frequentato l'istituto tecnico hanno bruciato gli esami del biennio del Politecnico, erano veramente preparatissimi. Ci sono, insomma, quello che veniva raccontato è che ci sono degli istituti tecnici ad altissima competenza e preparazione proprio nelle materie assolutamente, ecco, scientifiche. Ma Alberto, sotto il profilo psicologico, come aiutare questi ragazzi in questa scelta? Cioè, è vero che bisogna un po' lasciarli decidere, è vero però che sono piccoli e comunque a volte la cercano proprio anche il consiglio dell'adulto, come è giusto che sia. Ecco, assolutamente. Come, però io devo guardare, come fare senza strafare da parte di un genitore? Guardo mio figlio a 360 gradi, cioè nel momento in cui mi sta dicendo io ho scelto questa scuola, quali sono le variabili che lui ha messo nel suo processo decisionale. Se ha messo solo perché il mio amico del cuore fa quella scuola, chiaramente non è una scelta matura. Se lui ha messo esclusivamente perché mi fido del consiglio orientativo dei miei insegnanti, anche quella non è una scelta matura. Se dentro invece alla sua scelta della scuola c'è una passione, una decisione forte e poi c'è anche una sorta di competenza rispetto ai propri punti di forza, io posso permettermi come genitore di dire a mio figlio: mi sembra che stai facendo una scelta con tutti i criteri, cioè io vedo che la tua è una scelta proprio che hai ben orientato, non è una scelta caotica, per cui sì, vedere come si orientano, vedere come motivano con noi la loro decisione e vedere anche quanta passione c'è dentro. Certo. La loro scelta. Alberto, resta con noi perché così ci aiuti a rispondere a qualche genitore. Roberto da Firenze, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera Roberto, dici tutto. Niente, io volevo intervenire in quanto diciamo una cosa che si dà abbastanza per scontata, però è quella nella quale mi sono trovato io come zio, nelle veste di zio. Ecco, stasera ovvero... non abbiamo solo i papà ma anche gli zii. Esatto. Fantastico. No, dicevo, un fattore di scelta abbastanza ovvio per certi versi che può condizionare il ragazzo e la famiglia nell'orientare appunto la scelta per l'istituto superiore è anche l'eventuale presenza in famiglia di imprenditori o comunque di una carriera artigianale o di altro tipo, già comunque in essere, che può rappresentare, diciamo, già per il figlio una via da seguire, insomma. Perché insomma in molti casi i genitori dicono abbiamo già questo negozio avviato, piuttosto che questa professione, questo studio, quindi cercano un po' di indirizzare i figli anche per il loro bene, evidentemente, no? In questo periodo di crisi hai già un lavoro fra le mani, perché perderlo così, giusto? Esatto, io infatti in particolare svolgo la professione di odontotecnico. E niente, appunto l'anno scorso, abbastanza sorpresa, mio nipote mi ha comunicato l'intenzione di seguire questa via, e io da una parte mi sono sentito orgoglioso e felice di questo, però per conto anche perplesso per come è nata, perché in tutti questi anni, cioè, lui non era mai venuto ad esempio a vedere l'ambiente dove lavoro. Cioè, il tuo sospetto è che siano stati i genitori a pilotare un po' la scelta, è questo che stai dicendo? Sì, un po' quello, ma sicuramente non è stata, a me non sembrava, una passione nata appunto da che bello, lo voglio fare anch'io, perché ha visto appunto come lavoro, il mio ambiente e altre situazioni che poteva giustificare questo. Alberto Pellai, quando sono i genitori a scegliere per tradizione familiare, insomma, non sempre ci si azzecca, eh? No, io direi proprio che è una pessima scelta, perché la percezione di molti figli è che si trovano scelti nelle scelte che invece loro vorrebbero fare da protagonisti, e tra le altre cose proprio un'esigenza psicologica di un adolescente è quella di sentire che si può individuare in modo differente, autonomo, rispetto alle aspettative che gli adulti hanno su di lui, gli adulti di riferimento. Quindi se è un figlio che sceglie la carriera del padre, possiamo abbracciare la sua scelta e magari sostenerla, ma mai fare l'operazione contraria, potremmo veramente pentircene amaramente. Tra l'altro un figlio potrà rientrare sempre nella professione del genitore. Certo, volendo lo può fare. Roberto, quindi insomma non è stata una scelta forse troppo consapevole. Grazie mille per essere intervenuto. Abbiamo ancora un quarto d'ora, quindi se volete qualche altro messaggio e qualche altra telefonata ci sta. 349-238-6666 800-24-0024. Ci fermiamo un istante. Scuola, quale scelta per i nostri figli? E c'è chi è stato promosso, c'è chi è stato bocciato, chi non ha retto la commedia ed è uscito dal gioco, ma quelli che ha studiato si sono laureati, dopo tanti anni adesso sono disoccupati. Eccoci qua per l'ultima parte di questo speciale dedicato alle iscrizioni scolastiche, quale scelta per i nostri figli. Alberto dalla provincia di Lodi, buonasera. Sì, buonasera. Volevo solo un'informazione, se è possibile. Certo, siccome io siamo qua apposta. Ho provato per iscrivere mio figlio per il primo elementare, perché ha 5 anni, per il prossimo settembre. Però non sono riuscito. Alberto, ha iscritto sua figlia troppo presto? No, ma oggi l'ho provato, ma no, sulle caselle dei tempi, sono 4 caselle, siccome faccio parte della provincia di Lodi, sì. E in Lombardia abbiamo anche tempo pieno di 40 ore. Quindi lei non ha capito bene come funzionano queste elementari fra tempo pieno e tempo invece normale, diciamo, è questa la sua domanda? Sì, mi esce sulle caselle 1, 2, 3, 4, però nessuno me lo accetta. Volevo sapere quale di queste caselle corrisponde alle ore. Viene dalla scuola. Allora, Dell'Oro consiglia un salto a scuola, perché sì, così sì, si chiarisce sì. Anche bene le idee su che cosa possa essere più utile presenti. Per la sua di famiglia, per la sua di bambina, anche quindi al di là della questione tecnica forse dell'iscrizione, c'è è meglio che lei anche delle scuole, si chiarisca le idee. Grazie Alberto. Invece Saverio da Napoli, buonasera. Buonasera alle signore e ai signori. Senta, io ho sentito un po' gli interventi, sono un assiduo ascoltatore di Radio 24, però mi sembra che un po' tutti siano dimenticati di quando sono stati bambini o comunque adolescenti. Io alla terza media, quando ho finito le scuole medie dell'obbligo, non sapevo cosa volesse dire liceo scientifico o industriale o classico, quindi come si fa a seguire la propria indole oppure la propria passione se in realtà non si sa? Beh, però forse una volta si sapeva meno, adesso proprio grazie a tutti questi programmi di orientamento forse si sa troppo, se possiamo dire. Forse il problema è proprio l'opposto, in realtà nelle scuole anche dell'oro, quante se ne fatte di scuole per raccontare? Beh, noi quest'anno abbiamo incontrato quasi 10.000 studenti con una serie di attività effettuate, quindi incontri di formazione e di informazione fatti in seconda media e in terza media, qui dipende molto anche dalle situazioni territoriali, ma certamente le informazioni vanno date e i ragazzi devono conoscere bene le caratteristiche di un corso, che materie presenta, che impegno richiederà, e ovviamente interrogandosi insieme sui requisiti d'ingresso. Per e le scuole sono anche tenute a spiegare ai ragazzi qual è l'offerta, magari qualcuno lo farà meglio, qualcuno lo farà peggio, ma nelle scuole medie c'è un lavoro ormai abbastanza capillare di questo genere. E poi, se possiamo dare un consiglio per un po' per gli insegnanti, i principali protagonisti di un'attività di orientamento, adesso al di là del contributo che può venire dall'esterno, dalle agenzie di formazione, sono i principali protagonisti, devono essere gli insegnanti e i loro studenti. Questo deve essere una cosa importante. Invece a volte c'è un principio di delega, sono arrivati quelli dell'orientamento, non funziona così. Gli insegnanti, i suoi studenti sono i principali protagonisti di un'attività di orientamento. Adesso vi presento Erika Di Martino, perché mi piace chiudere così, purtroppo siamo già insomma alla fine, mi piace chiudere così questa trasmissione. Ha fatto una scelta molto particolare Erika Di Martino, buonasera. Sì, buonasera, buonasera. Lei questo problema non ce l'ha, diciamo, dell'iscrizione. Infatti, guarda, la trasmissione è interessantissima e mi piace molto ascoltarla, anche se in realtà noi non ci facciamo problemi di iscrizione online. Perché la signora, come non è l'unica in Italia, anzi se poi ci dirà quanti siete, perché non ho cercato questo dato, ha deciso per l'homeschooling, cioè i suoi figli lì fa studiare in casa. Come funziona esattamente, Erika? Ma innanzitutto in Italia siamo circa 1 miliaio, i dati precisi non ci sono ancora, anche perché in Italia è proprio in questi anni che si sta parlando in più della faccenda e quindi i genitori sono informati sulla possibilità, ecco, oltre alle scuole tradizionali, anche la possibilità appunto di fare educazione parentale. Sicuramente anche per noi è un momento di riconferma questo, perché mentre i genitori appunto iscrivono i figli a scuola, noi dobbiamo comunque dichiarare presso le istituzioni la nostra scelta di fare educazione parentale, che è comunque una cosa che va rinnovata di anno in anno. Ecco, è una dichiarazione, ci tengo a sottolinearlo, perché è un nostro diritto di genitori, certo, che però va rinnovato di anno in anno, quindi ecco. E di anno in anno forse dovete anche dimostrare di essere in grado di far raggiungere ai vostri figli un livello, dico bene? Ma praticamente quello che ci viene richiesto è un'autocertificazione, di avere quindi le competenze tecniche o materiali, in questo caso, per educare a casa i nostri figli. Certo. Erika, ma lei lavora? Sì, sì, io lavoro, sì, ho 4 figli, lavoro, ho un mutuo, ho bollette, ho un marito, grazie al cielo. E come mai ha preso questa decisione? Ma devo dire che le motivazioni sono molteplici e ci vorrebbe un'altra trasmissione per raccontarle, ma sicuramente la chiave del modo di educare della nostra famiglia è la libertà, nel senso che io desidero che i miei figli scelgano liberamente di imparare qualcosa e che lo facciano con gioia, al contrario magari appunto di imparare qualcosa per obbligo o magari per passare un compito in classe con la coercizione o comunque con una sensazione, ecco, di necessità. Sì, ecco, e i suoi figli sono contenti, non dicono nulla, cioè tutti e quattro, non so se siano molto piccoli, qualcuno più grande ci sarà senz'altro su 4, non sono, non so, invidiosi dei loro compagni, non chiedono, non hanno mai chiesto per esempio di voler provare ad andare nella scuola normale, tra virgolette? No, assolutamente no, in realtà quelli invidiosi sono gli amichetti che vanno a scuola, che sentono i miei un po' come privilegiati, diciamo, perché non hanno questa incombenza giornaliera. e altre cose, e sicuramente è una scelta che abbiamo preso in comune con loro, quindi non è una scelta genitoriale unica che impone al figlio di non andare a scuola. I miei figli hanno amici che vanno a scuola, abbiamo amici insegnanti, quindi conoscono la realtà della scuola seppur dall'esterno, e sono anche liberi, se domani volessero frequentarla, di andarci. Ecco, la cosa che trovo interessante rispetto a quello che di cui si è parlato questa sera è il fatto della passione, no? Che molti non sanno esattamente, no? Il futuro, decidere del futuro della scuola. Io trovo che con l'educazione parentale comunque un bambino che è libero riesce a scoprire il proprio talento facilmente, proprio perché non è oppresso da tante cose, da troppe cose, no? E quindi da solo riesce, tramite anche la quiete, la calma, no? Una disposizione più soggettiva, a scoprirsi. Alberto Pellai, sei ancora qui con noi? Certo, sono qua in linea. Tu che ne pensi di questa scelta? Ma guarda, io ti devo dire che le mamme e i papà che fanno questa scelta devono essere veramente mamma e papà molto avanti. Cioè, a noi capita come psicoterapeuti a volte di sconsigliare ai genitori di stare vicino ai loro figli quando fanno percorsi scolastici normali, regolari, perché diventano troppo intrusivi, oppressivi, ossessivi. Quindi credo che questa sia una possibilità, una scelta, però per genitori davvero illuminati, certo, che sanno tenere la giusta distanza oltre che la giusta vicinanza col percorso scolastico dei loro figli. Quindi andarci cauti, perché non è una scelta per tutti. Ecco, grazie ad Alberto Pellai, grazie ad Erika Di Martino. Vi voglio far ascoltare invece un servizio realizzato dalla nostra Alessandra Tedesco della redazione, perché ha scoperto un'esperienza di orientamento molto originale. Si chiama Progetto Daedalus, meno dispersione, più occupazione. La sperimentazione è avvenuta in Italia per 2 anni in alcune scuole medie di Biella, grazie ai fondi europei Interreg, programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera. Al posto del tradizionale testo di orientamento, alcuni insegnanti della scuola di scrittura Holden di Torino hanno chiesto ai ragazzi di scrivere dei racconti su vari temi. In questo modo gli esperti di orientamento hanno potuto cogliere meglio le qualità e le aspirazioni degli studenti, consigliandoli al meglio. Risultato: ragazzi più soddisfatti e meno dispersione scolastica, come spiega la responsabile del progetto, Maria Chiara Pizzorno. Allora, il primo e più importante risultato, e siccome è un progetto di prevenzione della dispersione scolastica, è che oggi di 220 ragazzi sono tutti a scuola, tranne 2 che si sono ritirati, quindi abbiamo un rischio di dispersione inferiore al 2%, e questo è stato il primo grande risultato. Un altro grande risultato è stato che sono cresciuti, è stata dall'Università di Torino misurata il loro percorso di crescita, sono cresciuti nella consapevolezza di sé, ma soprattutto nella fiducia in sé, che era il grande messaggio che Daedalus voleva mandare, che sono in grado di affrontare il nuovo ciclo di studi, di perseguire i propri sogni, e quindi hanno aumentato la loro fiducia in sé. Che differenza c'è fra l'indirizzare un ragazzo e sottoporlo al classico test di orientamento professionale e invece applicare il metodo Daedalus? Il test conferma quello che già c'è, punti di forza e punti di debolezza, ma non trasforma quello, non fa uscire quello che ancora non si vede, non fa uscire il potenziale e non trasforma le difficoltà, i vincoli in opportunità, non aiuta a crescere. E poi il test non ti dice niente del posto in cui vive il ragazzo, magari ti dice che è portato per la matematica, ma non sai dove vive, che genitori ha, che compagni ha, che cosa, qual è il suo territorio. La storia raccoglie tutto, la storia mette tutto insieme, ti restituisce tutto di quella persona. Per chi fa orientamento, più sai di quella persona, più la vedi globalmente, più hai possibilità di sostenerla. E ora il punto di vista degli studenti che hanno partecipato ad Daedalus. Ci facevano delle domande e noi dovevamo ci mettevamo in disparte dagli altri e iniziavamo a scrivere quello che pensavamo. Raccontavo un po' della mia vita, di cosa mi succedeva, cosa mi piaceva fare. E cosa hai capito? Che cosa hai deciso di fare? Che avevo molta creatività, quindi ho scelto la scuola di moda. Diciamo che ho preso bene la mia scelta, adesso vado molto bene a scuola. No, io ero più per un liceo artistico, però ho capito che ero più portata per un istituto più tecnico, e allora adesso ho deciso di fare l'istituto di geometri e adesso mi trovo bene, la scuola è bella. Diciamo che avevo le idee un po' confuse sulla scuola, avevo tantissime scelte che spaziavano dalle lingue piuttosto che fosse il liceo classico, il liceo scientifico, anche se comunque ho capito che alla fine dovevo seguire quello che era fin da subito il mio sogno nel cassetto, che era quello di voler fare la stilista. Prima pensavo pensavo di essere portata solo per l'arte, per la musica, però in realtà adesso faccio l'istituto tecnico geometri, quindi ho capito che in fondo, cioè, mi ha fatto capire un'altra parte di me, diciamo. Daniele Grassucci, la conclusione in 10 secondi. 10 secondi, ragazzi, c'è tempo fino al 28 febbraio per iscriversi, quindi con calma, soprattutto fate la scelta giusta. Francesco Dell'Oro. Beh, un messaggio è questo: i ragazzi non devono farsi guidare dagli insuccessi, dalle difficoltà. Le difficoltà vanno individuate, considerate con attenzione, ma non devono essere la loro stella polare, nel senso che dobbiamo dare un messaggio loro di fiducia. A volte noi a scuola riusciamo a individuare le capacità e le difficoltà, ma non sappiamo cogliere le potenzialità. Questo è un po' il punto importante. Grazie a Cristian Goldoni in redazione, a Filippo Aureggi in regia, un saluto da Maria Piera Ceci.